Radio 24 Reportage. Da Vanazzor, un terzo della popolazione, 150.000 abitanti, è emigrato in Russia per lavoro, tra le 50 e le 60.000 persone. I disoccupati ufficiali sono circa 6.000. Visitiamo la fabbrica tessile Gloria, di proprietà tedesca, la più grande di Vanazzor. Vi lavorano 700 persone. Le 200 operaie che vediamo tagliare e cucire vestiti su macchinari di provenienza cinese hanno un salario pari a 150 euro al mese, ma sono contente, hanno un lavoro. Incontriamo la direttrice Asmik Julakian. È stato difficile passare dal sistema sovietico a quello capitalista. Noi abbiamo un vantaggio, abbiamo visto entrambi i sistemi. Cerchiamo di prendere le cose buone del sistema attuale, tenendo al tempo stesso quelle buone del sistema sovietico, perché non tutto era male. Ma non è facile. Il periodo di transizione è stato buio. È stato come passare da una situazione in cui eravamo in cattività, perché eravamo all'interno dell'Unione Sovietica, a un sistema aperto, dove siamo in contatto con tante informazioni. Il rischio oggi è non sapere quali informazioni scegliere tra tutte quelle che ti arrivano. Non posso dire che il sistema sovietico fosse sbagliato o peggiore. Anzi, sotto il comunismo, agli studenti era garantita una eccellente formazione professionale. Però non si poteva uscire dai confini sovietici e tutti guadagnavano allo stesso modo, non c'era la meritocrazia. Il capitalismo porta invece troppa libertà e troppe informazioni. La crisi l'abbiamo sentita con un calo degli ordini, ma grazie a Dio non abbiamo dovuto licenziare nessuno. Qui si producono capi d'abbigliamento che vengono esportati soprattutto in Russia e Germania, ma gli ordini arrivano anche da due aziende italiane che vendono abbigliamento per l'infanzia. I principali problemi sono logistici. A causa delle frontiere chiuse con la Turchia, il trasporto deve passare attraverso Bulgaria e Russia. Ma come sono i lavoratori armeni? Lo chiediamo a Marcello Besson, un italiano che da alcuni anni lavora in Armenia come manager del food and beverage all'hotel Golden Tulip di Yerevan. Loro, arrivando da un periodo di dominazione sovietica abbastanza lungo, sono abituati comunque anzitutto ad avere un minimo garantito, per cui la società capitalistica in cui adesso si sono loro malgrado infilati, secondo me, è una sorpresa per loro, perché si devono rimboccare le maniche come non sono mai stati abituati a fare se vogliono ottenere qualcosa. Dall'altro canto loro sono delle persone che sono generalmente molto permalose, quindi se uno non le sa prendere nella maniera giusta e non le sa indirizzare nella maniera giusta, si ritrova un muro di fronte. Nara Aslanian lavora per una impresa di catering creata da donne. Le donne armene hanno un ruolo importante e di solito sono delle grandi lavoratrici. Di sicuro nella nostra società non c'è discriminazione, perché le donne sono impiegate nel mondo del lavoro in modo uguale agli uomini. La donna armena si è fatta notare nella storia per essere molto tollerante e perché ha sempre lavorato sodo. I figli li portiamo all'asilo se dobbiamo lavorare. Non è che gli uomini ci aiutino molto nelle faccende di casa. Qualcuno magari lo fa, ma non è un fenomeno molto diffuso. A questo punto, però, vuole intervenire Aram Avagian. Vorrei dire qualcosa a difesa degli uomini. E non mi vergogno a dire quello che sto per dirvi, anche se sono di fronte a delle donne. Quando i miei bambini sono nati ed erano piccoli, ho persino stirato i loro vestitini e le lenzuola nelle quali li avvolgevamo. Aiutavo mia moglie a lavare i bambini e anche a cambiare i loro pannolini se erano sporchi. E oltre a questo, ho continuato a lavorare per mantenere la mia famiglia, mia moglie e i miei bambini, per non far mancare loro nulla. Lavoravo 10 ore, anche 15 se necessario. Poi ci racconta un aneddoto sui vicini iraniani, con i quali, nonostante le differenze, è in atto un'importante cooperazione economica. So che almeno alcuni iraniani vengono qui in Armenia per bere. perché non è permesso nel loro paese. Io li ho visti, questi persiani, bere qui da noi. Forse non erano forti bevitori, comunque bevevano birra, e nel loro paese è proibito. Quindi, da questo punto di vista, qui trovano più libertà. Nel loro paese islamico è severamente proibito bere alcolici. Prima di lasciare Vanazor, visitiamo la chiesa di San Gregorio di Narek. È stata costruita di recente. I sovietici hanno fatto abbattere molte chiese armene. In una sala sottostante è stata allestita una mostra. Qui troviamo un ragazzo e una ragazza che fanno le prove su un pianoforte a coda. Padre Stefanus è l'organizzatore delle attività parrocchiali. Abbiamo organizzato molti eventi, come la mostra d'arte dei bambini o i concerti di musica. La chiesa è un punto di riferimento importante per molte famiglie che mandano qui i loro bambini. Noi armeni siamo cristiani da più di 2000 anni. Ora, con la crisi economica, la gente sente ancora di più il bisogno di venire in chiesa. Le differenze tra i cristiani armeni, gli ortodossi e i cattolici sono principalmente differenze di rito, come il segno della croce, che è diverso. Il cammino verso la democrazia è ancora lungo. I media non sono liberi. I giornali sono controllati dai partiti. A Yerevan incontriamo Liana Aroyan, avvocato e direttore dei progetti del Media and Law Institute. Ha seguito diversi casi di giornalisti intimiditi e picchiati per le loro idee. L'anno scorso ho avuto tra le mani 6 o 7 casi di giornalisti picchiati e minacciati da sconosciuti. Questi sono i casi di cui io sono a conoscenza, perché me ne sono occupata. Probabilmente ce ne sono di più, picchiati per le loro opinioni. Uno fu picchiato così brutalmente che finì in coma per alcuni giorni e la sua vita fu in serio pericolo. Un altro fu picchiato ferocemente fino ad avere un'emorragia cerebrale. Ma usano anche un altro metodo per mettere a tacere i media. Fanno partire delle ispezioni fiscali contro i giornalisti, che manifestano idee critiche nei confronti del governo. Purtroppo la nostra legge fiscale è talmente povera, nella sua formulazione, che può essere interpretata in tanti modi. Perciò riescono sempre a trovare delle irregolarità e quindi procedono congelando il conto in banca del giornalista. Elisa Nazaretyan, 24 anni, giornalista a Radio Armenia. Per gente giovane come me, lavorare nei media è relativamente facile. In altri settori non c'è lavoro per i giovani, ma nei media ci sono possibilità di fare degli stage e poi restare. Io ho trovato lavoro a Radio Armenia dopo lo stage. Ora sto ancora studiando, ma al tempo stesso lavoro. Siamo in 15, di cui 3 giornalisti. Parliamo di politica e di cultura e trasmettiamo solo musica armena. Però i giornalisti non sono liberi di dire quello che vogliono, soprattutto nella sfera politica. I nostri media non sono indipendenti e questo non mi piace. Narin Safarian, giornalista di Internews Armenia, che ha sede nella capitale. Ci sono certi argomenti e certe persone nel governo e nella società, oligarchi, grandi uomini d'affari, che non puoi mai criticare perché sono loro che possiedono i media del paese. Gli oligarchi mettono il loro denaro nei media, perciò è impossibile parlare di loro in modo critico. La situazione non è la stessa per tutti i tipi di media. Le televisioni, per esempio, si trovano in una situazione molto difficile perché appartengono tutte a determinate persone. Sono soggette alle pressioni del governo o del partito al potere e ci sono certi argomenti, soprattutto politici, che i giornalisti non possono coprire come vorrebbero. Invece i media elettronici sono i più liberi. Allora, se uno vuole avere il quadro della situazione, deve prima guardare la TV e poi aprire internet e leggere cosa scrivono, perché solo così si può capire di quali cose i media armeni non parlano. Bisogna fare confronti, altrimenti non si riesce a capire dove sta la verità. Non tutti però lo fanno. In genere sono le persone colte, le più istruite, che si informano. La maggior parte della gente non lo fa, anche perché molti non hanno internet in Armenia. Quindi restano sotto l'influenza di alcuni media. Majority were under the influence of some media. A frenare lo sviluppo dell'Armenia, oltre al blocco delle frontiere con i vicini, c'è l'eredità sovietica, oligarchi, burocrazia pesante e corruzione. La crisi economica ha colpito diversi settori. C'è bisogno di sviluppare le infrastrutture e i servizi e di dare un impulso al commercio. La gente sa di avere dei diritti, ma non pensa a difenderli. I sindacati, le associazioni non riescono a farsi sentire. Nel marzo 2008, una manifestazione dell'opposizione in Piazza della Libertà, a Yerevan, davanti agli edifici ministeriali in tufo rosa, è stata repressa nel sangue. L'ordine è stato ristabilito con i carri armati. Ma l'Europa guarda con interesse all'Armenia, che presto, quando sarà ultimato il progetto di gasdotto che passerà attraverso il suo territorio e la Georgia, potrebbe diventare un importante distributore del gas iraniano.